prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Il nostro viaggio all'interno dei centri di ascolto vicariali della povertà e delle risorse si sposta oggi nell'Alta Padovana. Siamo nel vicariato di Cittadella, dove dal maggio 2014 è stato attivato appunto il centro di ascolto vicariale della Caritas. Ci facciamo raccontare qualcosa dalla signora Antonietta Bauca, al telefono con noi. Buongiorno Antonietta. Buongiorno. Dunque, ormai un anno di attività da quando è stato attivato questo centro di ascolto. Ci racconta quanti siete persone volontarie appunto che prestano il loro servizio a questo sportello? Allora, il servizio è partito un anno fa, dopo un corso di formazione di base tenuto appunto dai referenti della Caritas diocesana, al quale hanno partecipato una settantina di persone. Quindi è stato molto allargato e molto partecipato. Poi di questa settantina di persone che hanno dato la loro disponibilità per essere operatori del centro d'ascolto sono stati una quindicina, 16 più o meno. Ecco, e, appunto sono partiti questi due centri d'ascolto, due centri perché vedendo un po' la geografia del vicariato che parte da Bassano per dire Cassola e la parte più a sud è Sant'Anna Morosina, abbiamo deciso che era opportuno che ci fossero due punti d'ascolto, uno è a Rossano Veneto, il secondo è a San Donato di Cittadella, a sud di Cittadella, una parrocchia a sud di Cittadella. Ecco, per essere più vicini insomma anche in zone diverse. Sì, in zone diverse, in province diverse. E anche con, come dire, ci sono due ULS che sono in... Da riferimento appunto. Di riferimento, l'ULS 15, l'Alta Padovana, e l'ULS di Bassano del Grappa, ecco, ULS numero 3. Ecco. Una quindicina appunto su 70, sono tante 70 persone o no che hanno partecipato a questo corso? È vero che il territorio è vicariale, però insomma mi sembra un numero più che buono. No, le persone hanno partecipato anche con continuità, tutte hanno partecipato, quasi tutte, a tutti gli incontri previsti e dunque hanno partecipato persone che fanno ascolto magari nel centro di vita, che hanno approfittato di questa opportunità per avere un minimo di preparazione all'ascolto generale. Certo, perché un conto è la buona volontà, come abbiamo detto anche in altre occasioni, un conto però è essere preparati ad affrontare, a conoscere diverse situazioni. Certo. Appunto, voi sì. da un anno avete questi due centri aperti, svolgete gli stessi servizi, cioè si trovano le stesse opportunità in entrambi oppure c'è una specializzazione? No, tutte e due hanno la stessa modalità di intervento, assolutamente, operatori diversi, perché appunto ci siamo suddivisi in due gruppi, ogni gruppo c'è un coordinatore. Ecco, e quindi vi occupate di tutto praticamente? Sì, certo, di tutto, sì. Non è che uno si occupa più di alcuni aspetti e l'altro di altri, no. Ecco. C'è tutto a disposizione. E vogliamo ricordare anche gli orari, i giorni in cui trova qualcuno? Sì, allora per quanto riguarda Rossano Veneto, martedì mattino presso la parrocchia di Rossano, martedì mattino dalle 9 alle 11. San Donato, giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 30. Durante l'estate, per l'inverno avevamo anticipato di un'ora, ma l'orario è questo. Ecco. L'orario è questo. E presso la parrocchia sempre, certo. La parrocchia di San Donato ci ha messo a disposizione un locale, una stanza dove ci troviamo. Ecco, in queste poche ore di apertura quanta gente viene? Allora, può essere che vengano quattro persone, come due, come otto, dipende un po', non è sempre uguale, ecco. Qualche volta all'inizio è successo anche che non era venuto nessuno, perché non c'era stato abbastanza informazione da parte delle parrocchie e quindi le prime volte insomma siamo stati un po' tranquilli, così, ecco. Però appunto ci dicevano anche a Padova, state tranquilli che le persone arrivano, non è che dovete andare a cercare, insomma arriveranno e difatti insomma, le persone stanno arrivando e sempre più vengono inviati dei parroci, dei servizi sociali anche, perché sempre più sono informati che c'è questa opportunità, diciamo, nel territorio. Ecco, ecco, il vostro, come credo anche altri centri di ascolto, appunto è di ascolto, ma è anche di orientamento, cioè oltre a fornire magari dove è necessario e dove ci sono le condizioni, degli aiuti concreti, magari riorientate le persone presso altri servizi. Lei ha già citato appunto il comune LULS, ma magari siete voi stessi che a vostra volta orientate le persone presso altre strutture? Sì, assolutamente. Intanto, appunto, durante l'ascolto ascoltiamo un po', mettiamo la persona a suo agio, in modo che si esprima e che ci dica il motivo per cui è arrivata là, e poi dopo, in base, se per esempio la persona non ha mai conosciuto i servizi sociali, non si è mai rivolta, cerchiamo di indirizzarla dandole anche degli orari e i giorni in cui l'assistente sociale riceve, perché se è una problematica che può essere risolta appunto dal comune, dal servizio sociale, cerchiamo di indirizzarla. Se si tratta di problematiche che riguardano un centro aiuto alla vita, siccome c'è questo servizio già da qualche anno che sta funzionando, molto attivo, diciamo, l'inviamo anche al centro aiuto alla vita, come pure presso i servizi di distribuzione di viveri, che nel vicariato sono 5, quindi a seconda della provenienza della persona inviamo agli sportelli della distribuzione. No, facciamo molto questo lavoro di invio, di informazione, perché sappiamo bene che noi siamo una piccola parte, ma che facciamo parte di un territorio dove fortunatamente ci sono abbastanza possibilità e risorse e risposte, ecco. Certo, e voi fate... Come pure il centro, lo sportello del Fondo Straordinario di Solidarietà. Sì, che è un'altra, ecco, realtà molto importante. Che è un'altra realtà molto importante. L'ultima cosa, Antonietta, tra italiani e stranieri, se c'è differenza, è anche l'età. Allora, le persone mediamente sono persone mature, quelle che vengono, che hanno dei 40 in su, più o meno, insomma. E sempre più ci sono italiani che si rivolgono allo sportello. Quindi saremo a 40 e 60, insomma, come media, insomma, tra italiani e stranieri. E tanti uomini rispetto alle donne, abbiamo notato questo. Ecco. Quindi è un po' la fotografia che vediamo anche da altre parti, quindi non fa differenza nemmeno per l'Alta Padovana o per quella zona appunto in cui siete voi, quindi è una fotografia, una situazione comune. E allora noi ringraziamo la signora Antonietta e salutiamo tramite lei anche tutti gli altri volontari dei due centri di ascolto presenti nel vicariato di Cittadella. Grazie per la disponibilità, alla prossima occasione. Grazie, buongiorno. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.